Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Ogni domenica alle 12 su Controradio e nel quinto elemento su controradio.it. Contatti restiamoanimali@controradio.it. Buongiorno, 49esima puntata di Restiamo Animali. È domenica 16 dicembre 2012, puntata pre-natalizia questa volta. E oggi infatti la trasmissione sarà dedicata a varie forme di riflessioni e di stuzzicanti idee per affrontare queste ricorrenze in modo davvero speciale. E dal sacro al profano, dai piaceri dello spirito fino a quelli erotici, passando anche da quelli gastronomici, noi, popolo cruelty free, non ci faremo mancare proprio niente per questo Natale. In studio oggi con voi Camilla Lattanzi, Elisa Moretti, Lorenzo Guadagnucci, Silvia Vallecchi e Valentina Reggioli. Animal House. Notizie, interviste, attualità. In occasione della mobilitazione internazionale per la giornata per i diritti animali dello scorso 10 dicembre, il venerdì, il 7 dicembre, Essere Animali ha organizzato a Bologna una performance di forte impatto emotivo dal titolo Pescato. Ne parliamo con Simone. Ciao. Come mai avete deciso di parlare proprio di pesci? Abbiamo deciso di parlare proprio di pesci e ammetto che è un'iniziativa coraggiosa, appunto per quello che a nostro avviso rappresentano i pesci, che sono gli animali senza dubbio probabilmente meno considerati dalla società degli esseri umani, per cui solitamente si trova anche meno empatia, e proprio per questo abbiamo voluto essere la loro voce, perché fossero un po' un esempio di tutti quanti gli animali che sono sfruttati dagli esseri umani per molteplici motivi, pensiamo all'alimentazione ma anche all'abbigliamento, gli animali che sono rinchiusi nei circhi, negli zoo per l'intrattenimento, quelli che sono cavie per la ricerca medica. Forse non tutti sanno che cosa vuol dire pescato. Allora, pescato in gergo è, diciamo, un nome che identifica appunto quella massa di pesci che vengono pescati quando le reti dei pescherecci vengono issate, ed è proprio un nome che identifica una massa inerme calcolata in peso, in tonnellate, in quintali, e non si dà importanza ai singoli individui invece che la compongono, che in questo caso sono i pesci o comunque tanti altri tipi di molluschi o altre specie marine che vengono intrappolate in queste reti. È proprio anche per questo motivo che pensiamo che i pesci siano gli esseri viventi che sono un po' appunto i meno considerati, per i quali solitamente si trova meno empatia nella società. Com'è stata l'iniziativa di venerdì 7 dicembre? 5 attivisti della nostra associazione Esseri Animali, vestiti con delle tute bianche, si sono appunto volontariamente sottoposti a questo trattamento di rappresentare questi pesci e sono rimasti intrappolati in una rete molto simile a quella dei pescherecci, sati tramite un camion gru, sono rimasti sollevati da terra, e mentre nel frattempo altri attivisti mostravano i cartelli, tenevano lo striscione per creare un'azione che alla fine è stata di forte impatto per tutta la città di Bologna. Ricordiamo che eravamo in un punto centralissimo di Bologna, di fronte a Piazza del Nettuno, e molte persone si sono anche fermate al nostro gazebo, hanno chiesto informazioni. A tutte loro abbiamo ribadito che da lì a breve, il lunedì 10 dicembre, il Movimento Animalista Internazionale si sarebbe mobilitato per quella che era la giornata internazionale per i diritti animali, e direi che in tutto sommato è andato tutto molto bene. Abbiamo avuto anche molta visibilità sui media e abbiamo diffuso, diciamo, quello che era il nostro messaggio. Quali sono state le reazioni dei passanti? Molti erano un pochino stupiti, e questo dimostra anche che addirittura certe persone non percepivano il fatto molto semplice, molto banale, che anche i pesci provano sofferenze. Questo dimostra quanto viviamo in una società, quanto questa ci condiziona. Comunque una società che è molto antropocentrica, dove veramente gli animali sono percepiti come risorse a nostra disposizione, come delle che fossero delle cose di cui possiamo disporre a piacimento. Tutto questo succede anche perché noi non osserviamo gli animali, non viviamo vicino agli animali. Pensiamo ai pesci, che è un'ovvia considerazione perché vivono anche in un ambiente che a noi ostile come come il mare, ma pensiamo anche a tutti quanti gli altri animali che sono allevati, che comunque non possiamo vedere perché vivono rinchiusi negli allevamenti. Con azioni di questo impatto, cercando appunto una performance shock, cerchiamo un po' di risvegliare l'empatia nei loro confronti, nelle persone che appunto solitamente magari non si pongono neanche la domanda da dove proviene il cibo che mangio, che mi trovo in tavola. Si può parlare di pesca sostenibile? No, il concetto di pesca sostenibile è un ossimoro, perché la parola sostenibilità deve tener conto di moltissimi fattori, così come anche la parola etica. Quindi si potrebbe ipoteticamente trovare un tipo di pesca probabilmente meno inquinante rispetto alla devastante pesca intensiva che conosciamo oggi, ma comunque la pesca stessa è una pratica che porta all'uccisione di esseri viventi, un'uccisione che possiamo tranquillamente fare a meno, perché possiamo nutrirci di alimenti vegetali, possiamo lasciare stare tutti gli animali, compresi i pesci. Quindi penso che la parola sostenibilità non debba essere, diciamo, neanche accostata parole di pesca o anche di caccia o di tutte le altre pratiche che impiegano, sfruttano e torturano gli animali. Una galleria fotografica dell'evento si può trovare sul sito di Essere Animali, www.essereanimali.org. Grazie Simone, restiamo animali? Restiamo animali. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Mr. Salmon, bring me a dream. Bum bum bum bum, making the cutest that I've ever seen. Bum bum bum bum, given to lips like roses and clover. Bum bum bum. Nella rubrica Il pasto gentile di questa settimana abbiamo deciso di proporvi una conversazione con la nostra chef cruelty free Sara Razzoli, che abita a Correggio, in provincia di Reggio Emilia. Siamo curiosi di capire come in Emilia Romagna, nella patria del carnismo, viva il Natale una convinta promotrice della cucina cruelty free. Sara, com'è nato il tuo essere vegan? Sono stata vegetariana ai tempi dell'università per 4 anni grazie alla mia migliore amica, che anche lei era vegetariana. Quindi per un discorso d'amicizia sono entrata in contatto e conosciuto questa filosofia. Poi per varie vicissitudini mediche avevo ricominciato a mangiare carne, finché mio marito 2 anni fa ha conosciuto il movimento Straight Edge, un movimento musicale proprio contro le droghe, contro ogni forma di dipendenza, di cui molti al suo interno, molti musicisti, sono anche vegani. E lui ha sentito fortissimo questo desiderio di diventare vegano anche lui, perché si ritrovava negli ideali dell'essere vegani, e ha coinvolto anche me. Quindi da lì siamo partiti, per un motivo quindi etico, di rispetto e amore verso tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali. E man mano che questa cosa procedeva, mi sono anche informata approfonditamente sul discorso discorso della salute e ho visto che proprio anche a livello salutistico la vera dieta sana è quella vegana e noi non siamo fatti per mangiare gli animali, quindi è una scelta della quale ogni giorno siamo più entusiasti e più convinti. Mi hai detto sono una vegana inattaccabile perché non ho carenze e non ho cali di energie, è così? Esatto, esatto. Ho fatto spesso esami anche perché io insegno nelle palestre, faccio sport, me l'ha richiesto molto spesso, io non ho nessun valore al di fuori della norma, anzi, colesterolo bassissimo, ogni vitamina è perfetta, quindi sono inattaccabile da questo punto di vista. Tutti mi dicono che ho tantissima energia, che mi chiedono da dove mi arriva, voglio dire, non mangiando carne, non mangiando latte, sembra quasi inspiegabile, in realtà è proprio vero l'opposto, cioè noi abbiamo energia perché non intossichiamo il nostro organismo con alimenti animali che non sono fatti per noi. Non a caso l'umano è l'unico mammifero che continua a bere il latte dopo lo svezzamento e questo esatto. Dovrebbe farci chiedere perché. Uno dei perché è sicuramente di ordine economico e tu, Sara, abiti a Reggio Emilia, quindi proprio nella patria del parmigiano reggiano, delle grandi industrie, degli insaccati, dei salumi, delle salsicce, dove la pasta è solo all'uovo, dove mi hai detto non si trovano tanti legumi. Non fanno parte della nostra tradizione culinaria. Però tu sei uscita dal solco e allora dici, racconta agli ascoltatori, come sarà il tuo Natale vegan, come ti proponi di viverlo e come l'hai vissuto negli ultimi anni? Grazie al fatto che a me piace tantissimo far da mangiare e piace far assaggiare quello che preparo alle persone che mi sono care, come l'anno scorso anche quest'anno inviteremo tutti i parenti a casa nostra e senza dover dare alcuna giustificazione, perché in realtà non proporrò una cucina priva di o carente di sapore, di gusto. Sarà una cucina assolutamente gustosa, sostanziosa, che piace a tutti, nessun sapore strano e che incuriosirà, come già l'anno scorso, i miei parenti. Spesso noi vegani tentiamo di giustificarci per dire no, ma guarda è buona questa torta anche se non ci ho messo questo e quello. In realtà basta non dire niente. Le persone quando si trovano davanti un buon piatto, profumato, saporito, piace e lo mangiano. Per me è anche una bellissima occasione per far vedere ai miei parenti che sono comunque molto molto tradizionalisti. Qui in Emilia è vero, a livello politico siamo tutti abbastanza schierati verso idee di sinistra, ma culturalmente siamo molto tradizionalisti, molto conservatori, non si esce mai dal classico tortellino di carne il giorno di Natale, lo zampone. Invece se io gli propongo delle alternative differenti, comunque buone, che nessuno mi può dire che non siano saporite o che non appagano i sensi, e rimangono tutti piacevolmente stupiti. Poi chiedono dopo, ma non hai mai usato l'uovo, come mai la pasta è gialla, ma non hai messo il burro, come ha fatto la crostata venire comunque friabile. È sempre un modo, una testimonianza del fatto che si mangia benissimo, anzi si mangia molto meglio mangiando vegano. E soprattutto in occasione del Natale, dove è sempre un ripetersi, no? Siamo tutti più buoni, e tanti buoni propositi, usiamo il momento di riflessione, ecco allora bene, riflettiamo su anche il valore che ha questa scelta, non nutriamoci in modo crudele, facciamo in modo che anche il nostro mangiare, il nostro stare insieme abbia un valore affettivo, abbia un messaggio di non violenza, ecco. Quindi è importante quello che tu ci hai fatto notare della contraddizione tra il progressismo delle idee politiche e poi un tradizionalismo, un grande spirito conservatore quando poi si a tavola. Il consumatore informato, il consumatore critico, è importante che faccia una scelta e che affermi le sue idee anche nel momento in cui sta mangiando. Esatto. Cosa metterai nel menù di quest'anno? Ma guarda, sicuramente inizierò con degli antipasti leggeri, tipo dei pinsimoni o delle verdure a bastoncini con vari oli aromatici. E poi pensavo di fare dei crostini di pane abbrustolito con vari patè di verdure, non so, un hummus di ceci, una crema di carciofini, oppure un patè di pomodorini secchi, quindi delle cremine di vari tipi che vanno a fare una composizione bella colorata e invitante. E poi farò l'erbazzone, che è un classico della nostra cucina qui emiliana, che sarebbe una torta salata molto bassa a base di bietole, che nella ricetta normale dentro ci andrebbe tantissimo parmigiano, dello strutto, del lardo, una roba immangiabile. In realtà nella versione vegana è delizioso, saporitissimo e piace a tutti, anche i bambini. Come primo sicuramente faccio la pasta ripiena per i ravioli, perché qui la tradizione vuole a Natale i ravioli, il tortellino, e io lo farò proprio che sembrano i veri tortelli di zucca che si mangiano qua, che già anche l'anno scorso nessuno capiva come facessi a ottenere questa pasta gialla senza aver usato le uova, come potessero stare in piedi. In realtà si usa un impasto semplicissimo di semola, acqua con un pizzichino di curcuma che fa diventare l'impasto giallo e vengono dei ravioli buonissimi che piacciono a tutti. Di secondo farò un polpettone di lenticchie, che la ricetta l'ho posata poco tempo fa sul blog. Anche qui semplicissimo, senza ingredienti strani, proprio lenticchie, noci, verdure, dei contorni di patate, zucca arrosto, un po' di insalata mista. E come dolci devierò dal panettone Pandoro, nessuno ne sentirà la mancanza secondo me, perché ho intenzione di fare una crostata ripiena di pere, mandorle, datteri, che già lì è una botta di vita. Poi una zuppa inglese al limone cocco e poi dei biscottini alle spezie. Caspita. Io penso che con un menù così, cioè, nessuno uscirà che avrà ancora fame, che si potrà lamentare. Veramente, fa venire l'acquolina in bocca. Soprattutto i dolci, vedo che c'è una bellissima offerta. Tra l'altro la zuppa inglese prevede la crema, quindi evidentemente una crema con un surplus di amore, perché non mi piace dire senza uovo, mi piace dire che ha un amore extra, una dose d'amore. Esatto. Extra. Come fai a fare una crema con la dose d'amore extra? Tutti pensano che senza le uova non si riesca a cucinare niente. Non è vero, specialmente in pasticceria si può fare praticamente tutto anche senza le uova. Nel caso di una crema, semplicemente si uniscono agli ingredienti secchi, quindi della farina, un po' di fecola di patate, di zucchero e la curcuma che ci dà un bel colorino giallo, il latte di soia o di riso, e si fa addensare lentamente sul fuoco, raggiunge una consistenza e un colore identici alla crema. E se tu non dici che è una crema vegana, che ho usato questo piuttosto che quello, che non c'è nessun bisogno di giustificarsi, la mangiano tutti e leccano proprio anche la pentola. Non ho mai avuto nessuna obiezione per le creme. E alla fine del pasto si può fare un brindisi alla vita animale che abbiamo preservato e che non abbiamo minimamente intaccato. Sara, tutte queste ricette le troveremo anche nel nostro blog bestiamoanimali.wordpress.com con le tue, certo, solite bellissime foto. grazie, sì, si troverà tutto sul blog sicuramente. E anche sul tuo blog, per chi volesse. Basta andare su Google, nella ricerca, metti blog di Sara e Benna e viene fuori subito. Grazie Sara e tantissimi auguri. Grazie anche a voi. Sostiene Vallauri. Sul Natale penso di dire tre cose. Il Natale, quello del presepio, è sublime e un po' animalista. A Natale non è nato un animalista. Il Natale sociologico della cristianità non è né sublime né animalista. Primo punto. Il presepio è sublime come è sublime una musica. A te che sei del mondo il creatore mancano panni e fuoco, o mio Signore. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, essendo in forma di Dio, non considerò Harpagmon geloso possesso avere questa forma, Morfen Teu, ma se ne spogliò, fatto simile a uno schiavo e fino alla morte di croce. Questa dossologia di Filippesi 2 è l'idea più sublime che abbia avuto l'umanità. Si spoglia della regalità ontologica, si fa bambino in una grotta per animali, l'asino e il bue non sono nei Vangeli, ma sono comunque nel presepio popolare, tra gli umili, tra gli ultimi, azzera per sempre il prestigio del potere politico e del potere finanziario. Poteva nascere da un'imperatrice, in mezzo a dignitari imperiali, nasce da una ragazza e viene messo in una mangiatoia di paglia. La sua nascita è un po' animalista, perché sta in una grotta per animali e viene vegliato, sia pure a livello di pietà popolare, da un asino e da un bue che lo scaldano in mancanza di fuoco. Però a Betlemme non è nato un animalista. Gesù recluta i suoi amici, i suoi discepoli, interamente tra pescatori, cioè diciamo pure tra gente che tirava fuori dall'acqua i pesci e li lasciava agonizzare. Una prima volta moltiplica i pesci insieme ai pani sul lago e ne dà da mangiare a 5.000 persone partendo da due pesci, tanto di cappello, e mi auguro che fossero già cotti così non hanno agonizzato. Ma quando è risorto appare sul lago di Tiberia dagli apostoli cuocendo un pesce e un pane, e siccome loro non prendevano niente gli dice di buttare la rete a destra e la tirano fuori piena di pesci, in numero di 153, tutti grossi, e tirando la riva, dice il Vangelo, la rete nonostante questo non si è rotta. Per festeggiare il ritorno del figlio al prodigo, il papà uccide niente meno che il vitello grasso. Allora il fratello invidioso dice: per lui la pecora e per me il vitello grasso. Gesù non era un animalista. Per quello che riguarda i pesci, ho seguito recentemente una tesi di laurea sul fish welfare intitolati Pesci questi inascoltati, perché poverini, sono muti, vivono nell'acqua, non copulano e quindi ci sembrano molto molto lontani. Ma il diritto che si occupa dei pesci, sia come ricchezza degli oceani, di bellezza, sia come acquacoltura, allevamenti intensivi, si sta sviluppando rapidissimamente. Certamente non è animalista, è il Natale sociologico della cristianità. È una delle grandiose carneficine cristiane, ne abbiamo già parlato, i tacchini al Thanksgiving, i caponi, lo dice lo Zingarelli, il capone è un gallo castrato da giovane, quindi particolarmente tenero e grasso. Natale è la carneficina dei caponi, come l'altra festa di precetto, il Capodanno, è quella dei maiali, zamponi e cotechini, Pasqua è quella degli agnelli e tutti i venerdì quella dei pesci. Forse un buon modo di pensare, oserei quasi dire di pregare il Natale, sarebbe mettersi nella pelle di un animale e guardare a questo mondo degli uomini che santificano in questo modo la notizia più sublime dell'umanità. Di Agire Ora Edizioni si trovano regali di ogni tipo, dal mixer per cappuccino vegan alle calamite per frigo, magari proprio per far sentire in colpa i carnivori incalliti ogni volta che lo aprono. Poi ci sono magliette, il grembiule vegan chef solo per cuochi cruelty free, ma non solo, anche libri e perché no, panettoni e altre leccornie da gustare nei pranzi delle feste. www.agireoraedizioni.org/catalogo. Se non volete contribuire a rendere ancora più piena di cianfrusaglie la casa dei vostri amici, potete buttarvi sulle adozioni a distanza. Lo propone l'Ipoasi, la Fattoria della Pace di Marina di Pisa, in cui vivono animali da reddito di specie diverse. Con una donazione di 10 euro al mese si può sostenere una gallina. Con una quota mensile un po' più alta si può aiutare un cavallo, una mucca, un maiale, una pecora o un altro animale ospite del rifugio. A chi riceve il regalo sarà mandata una pergamena. Tutte le info sul sito www.ippoasi.org. Anche la LAV propone un'adozione a distanza per i cani salvati dai combattimenti. Il destinatario riceverà il certificato personalizzato nella versione natalizia. Ogni 3 mesi, inoltre, verrà aggiornato sui progressi nel recupero psicocomportamentale dell'animale. Penna bianca, Yogi, Mirtillo, Sam possono essere adottati a distanza anche dal sito lav.it. Sul sito dell'OIPA si possono acquistare magliette, felpe, borse di tela, cappellini ed altri capi di abbigliamento. Il sito di riferimento è oipa.org. Capi di abbigliamento, ma anche giochi da tavola e modellini di nave, è quello che propone lo shop europeo di Sea Shepherd. Da non perdere la borraccia col logo dell'associazione per evitare le odiose bottigliette di plastica, oltre a salvare gli animali. Il sito è shopeu.seashepherd.org. Anche la Lida propone gadget animalisti per Natale. La Lida di Firenze aspetta tutti al mercatino sabato 22 dicembre dalle 10 alle 19.30 in piazza Santa Maria Novella a Firenze. Saranno in vendita anche i calendari Lida Firenze per il 2013. Informazioni su lidafirenze.it. Anche l'Italian Horse Protection presenta il primo calendario prodotto dall'associazione, con le immagini che ritraggono alcuni dei cavalli ospiti del centro di recupero. Il calendario costa 8 euro e si può acquistare sul sito horseprotection.it. Qui si trovano anche altre idee regalo, dai cesti natalizi tra i 15 e i 30 euro alle borse di tela, oltre a magliette, felpe, cappellini, tutto firmato IHP. Propone un calendario anche l'associazione Adottami per Sempre, per il progetto Che razza di cane, che vuole aiutare tutti quei cani difettosi, nati e cresciuti in allevamento e poi finiti in strada o in canile. Quest'anno poi il progetto si arricchisce anche di una sezione dedicata ai gatti. Il calendario, da parete, si può avere con un'offerta base di 10 euro. Informazioni sul sito www.adottamipersempre.it. Il calendario 2013 dell'associazione Unione Amici del Cane e del Gatto è dedicato agli amici a quattro zampe ed è in distribuzione al canile del Termine, così come nella sede dell'associazione e in numerosi mercatini stagionali. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.unioneamicidelcaneedelgatto.it. Al canile del Termine comunque sono sempre ben accetti aiuti consistenti di scatolette e croccantini di buona qualità. Così come i regali di altre associazioni qui citate, anche i calendari del Canile del Termine saranno acquistabili anche alla cena di Restiamo Animali domenica 16 dicembre alla Casa del Popolo di Settignano. Infine vi proponiamo un regalo che arriva da lontano: cartoline, calendario e altri regali, tra cui un delizioso peluche a forma di orso, si possono acquistare sul sito www.animalasia.org/shop per aiutare gli Orsi della Luna. Visto che siamo a Natale, molte sono le associazioni per la ricerca medica che ci propongono un dono che serva loro a finanziare le proprie ricerche. Si va dalle azalee alla retina di arance o mele fino alla stella di Natale che nessuna casa può mancare in questo periodo. C'è da dire che la maggior parte delle associazioni per la ricerca medica utilizza una parte rilevante dei fondi raccolti per finanziare la vivisezione, spesso chiamata per comodità ricerca in vivo. Per fortuna un'altra parte dei fondi è invece dedicata alla vera ricerca medica, cioè studi clinici, epidemiologici, studi in vitro, sviluppo di nuove tecnologie per la diagnosi precoce e così via. Quello che occorre fare, da consumatori critici, è convincere questa associazione ad investire il 100% di quanto raccolto nella vera ricerca medica ed eliminare tutti i finanziamenti a studi di vivisezione. Così ne trarrebbero vantaggio tutti, i malati, la scienza e pure gli animali. Facciamo adesso una carrellata su quelle che sono le associazioni che in qualche modo non finanziano la ricerca sugli animali. Esistono alcune associazioni che danno aiuto ai malati ma non finanziano ricerche e quindi non c'è pericolo che i fondi da loro raccolti vadano a sovvenzionare la vivisezione. Queste associazioni non hanno una posizione pubblica antivivisezionista, semplicemente non finanziano alcun tipo di ricerca. Tra le varie ricordiamo l'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori, l'AMPO, Associazione Nazionale Prevenzione Oncologica e la LILA, Lega Italiana per la Lotta contro l'AIDS. Ci sono poi quelle associazioni che ad oggi hanno dichiarato di finanziare solo ricerche senza animali. Queste associazioni non hanno una posizione pubblica antivivisezionista, semplicemente non finanziano in prima persona ricerche su animali. Tra queste ricordiamo Fondazione per il Cuore Onlus e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Ci sono poi quelle associazioni che finanziano ricerche senza animali e si oppongono alla vivisezione in prima persona, sia in Italia che in altri paesi. Queste associazioni sono logicamente da preferire a quelle sopracitate, perché quelle di qui sopra semplicemente non usano animali, ma non hanno una posizione contraria alla vivisezione in generale. Tra le virtuose troviamo solo un'associazione italiana, tutte le altre sono straniere. Quella italiana si chiama I Care Italia, che in inglese vuol dire io ho cura, a me importa, sottolineando quindi la spinta etica di base contro la sperimentazione sugli animali. I Care è contro una scienza che uccide e provoca sofferenza e si occupa fra le altre cose di promuovere la ricerca di metodologie scientifiche che non fanno uso di sperimentazione su animali e provvedere al sostegno finanziario della ricerca scientifica in campo biomedico ed in particolare al finanziamento di progetti di ricerca e di borse di studio destinate allo sviluppo di tecnologie innovative e al perfezionamento professionale dei ricercatori. È importante scegliere per le nostre eventuali donazioni una associazione che non finanzi la vivisezione, e questo è chiaro, ma è altrettanto importante far sapere alle non prescelte il motivo per cui non si vuole dar loro dei soldi, perché solo così potranno cambiare comportamento. Quindi se proprio vogliamo aprire portafogli, dovremmo anche scrivere alle associazioni che finanziano studi di animali il motivo per cui abbiamo deciso di non finanziarle, invitandole quindi a cambiare destinazione dei loro fondi. Un'altra cosa molto importante è far conoscere questa situazione a quanta più persone possibili, perché è molto facile guadagnare dei soldi sulla presunta salute umana, soprattutto a Natale. In tema di regali e in tema in questo caso anche di follie del festeggiamento natalizio, sei per caso in cerca di un modo per rendere un po' più piccante la serata che si prospetta intrigante, finalmente solo con il partner? Non sei sicura che quei curiosi accessori scovati in quel sito un po' osé siano veramente cruelty free? Nessun problema. Drew Winter, vincitore nel 2007 del premio Il vegetariano più sexy degli Stati Uniti, ha quello che fa per te. Ha aperto il portale chiamato theveganSexShop.com, dove troverete i sex toys occorrenti per scatenare la fantasia erotica senza nuocere agli altri animali. Quando sei vegano, spiega l'intraprendente ideatore del sito, hai sempre qualche problema nell'acquistare sex toys. Non sai mai se quello che compri è in vera pelle o testato su animali. Con questo sito internet garantisco ai consumatori che tutti i prodotti sono al 100% cruelty free. Inoltre, chi acquista sostiene un'economia vegan, perché il 6% di qualsiasi acquisto viene versato a un gruppo o a un'associazione per i diritti degli animali a scelta del consumatore stesso. Drew Winter, che prima di diventare il sex symbol del mondo vegetariano era stato anche menzionato da Veg News tra i 20 più importanti attivisti under 30, dice che il marketing del suo nuovo business sarà semplice grazie al forte orientamento etico del mondo vegetariano e vegano. E così, in un momento in cui nessuno mi stava intorno, mi sono avventurata nel sito internet theveganSexShop.com. E ho trovato veramente di tutto. Scarpe sexy in ecopelle, oli per massaggi, liquidi lubrificanti non testati su animali, tutti i giochini strani da fare sotto la doccia, corsetti, maschere, manette, lacci, bende e frustini, tutto in ecopelle. Insomma, i vegan hanno accesso a un'ampia scelta e non devono rinunciare all'attrezzatura BDSM. Ovvero bondage, disciplina, sadismo e masochismo, tutte quelle pratiche basate su dominazione e sottomissione. Vi chiederete, ma come queste pratiche si combinano con un mondo animalista e antispecista in cui ogni gerarchia e dominio verranno finalmente superati? E beh, una volta che la gerarchia e il dominio saranno semplicemente un giochino eccitante da giocarsi consapevolmente tra adulti, ovviamente solo tra gli amanti del genere, potremmo dire allora di avercela davvero fatta. Per concludere, in rete ho trovato altri prodottini sfiziosi dedicati ai vegan. Quest'ultimo è veramente un mai più senza. Il vibratore a pannocchia chiamato Funny Veggie. Potete trovarlo digitando vibratore a forma di pannocchia Funny Veggie. Buone feste da festeggiare come vi pare, purché rispettose anche del piacere e della vita altrui, quindi necessariamente cruelty free. So they say, is the root of all evil today? But if you ask for a rise, it's no surprise if they're giving none away. Away, away.